storia di qualcuno. No, l'ho provata a indovinare, l'ho cambiata, l'ho aggiustata. Con qualche petalo di rosa fresca l'ho strammatizzata. E mille volte è finita bene. Amo le favole. Poi il nostro viaggio è partito. Una tenera ombra è scesa sui miei occhi. Non riesco più a cambiare niente, non c'è pietra che io riesca a sgretolare. No, no, il potere di mutare corso dei nostri giorni, ma in tanta dispersione ho trovato un piccolo rubino, rubino del futuro. E piango, piango, piango tanto, tanto, tanto, ai miei occhi si fa luce, il nostro futuro è tante. Le lacrime più della pioggia, il cuore inizia a palpitare e nella mente un solo perché. Non c'è pietra che io riesca a sgretolare, ma in tanta dispersione un piccolo rubino del futuro. E piango, piango tanto, tanto, se vuoi piangi con me perché non ho mai letto una storia così bella, un futuro d'amore con te.